Ambiance. Ambiance. Sokolingi ambiance. Una next lavoga mama. Ambiance motema, ambiance bolingo. Ambiance la moule palmo. Sala na nu ambiance. Sala na nu ambiance. Longola mawa moke. Ambiance motema, ambiance bolingo. Ambiance palmo. La boga wanga shiri mama, etso wanga ikale palmo. Naluli yo mwana palmo, nyaka nambiance. Oh, ilingi yo, ilinginga, tunara netwa yo mama. Bolingo jano la boga, kale kato. Margo Cabono, Calecato. Oh, Tayo Keyo Banzanga, Mato Jali Banzanga, Bolingue Jali Sucate, Calecato. Bolingue jali sukate, kale kato.